non ne poteva più, voleva vivere. Il Torino diventa anche l'ossatura della nazionale. Vittorio Pozzo, che aveva portato l'Italia alla vittoria del campionato del mondo del 34 e del 38, punta tutto sui Granata. Il Torino fu anche, sotto un certo punto di vista, il frutto di un'operazione compiuta dal commissario tecnico della nazionale Pozzo, che cercò di non disperdere i valori più interessanti della sua squadra e, in accordo col presidente del Torino Novo, gli fece acquistare in modo di tenerli concentrati tutti in una città e, fra l'altro, alcuni di questi lavoravano nell'industria e quindi per questo non vennero mandati al fronte, in modo quindi anche di non rischiare di perderli. In questo Pozzo fu sicuramente molto utile, da vecchio tifoso Granata, nel consigliare questi acquisti a Novo e nel creare in questa squadra, in questa città, un nucleo che poi doveva essere appunto il nucleo fondante del grande Torino e non a caso della sua nazionale, visto che poi quasi tutti erano giocatori che poi Pozzo utilizzò nella sua squadra. A Genova, incontro con il Portogallo, sempre con una squadra imperniata sul Torino che fornisce 7 giocatori. Siamo nella ripresa e gli azzurri riscattano il gol sul rigore del primo tempo. Ha pareggiato Menti, adesso è il turno di Mazzola. Per finire, Maroso, confinato all'ala per infortunio, segna il classico gol dello zoppo, un gioiello di semplicità. Alla fine di marzo si parte per Madrid, roccaforte non ancora espugnata dai calciatori azzurri. Ottimismo in tutti, da Bacigalupo a Barassi a Novo. Si torna sulle rive del Po, c'è in ballo lo scudetto e l'Italia del pallone, ancora una volta, è col fiato sospeso. Per Raff Vallone, giocare nel Torino è la realizzazione di un sogno. Ascoltiamolo e poi Franco Ossola. Io giocavo nei Prati e c'era un dirigente del Torino che mi ha interpellato e mi ha chiesto se volevo giocare nei Ballon Boys. Ora, il Ballon Boys era una leggenda, 5 volte campione d'Italia. Per noi adolescenti era veramente il massimo. Allora mi ha detto: ti manderemo a chiamare al Philadelphia. Io ogni giorno guardavo la posta freneticamente. Finalmente vidi il cartoncino con la stemma del Torino. L'Hotel Fiorina, l'antico Hotel Fiorina, dove 90 anni fa, nel dicembre del 1906, proprio in quella sala nacque il Torino. Alcuni dicono che nacque da una costola della Juventus, in realtà i tifosi Granata sostengono che l'autenticità della società è garantita perché nacque addirittura prima della Juventus. In una di quelle sale, proprio brindando probabilmente sulla soglia della mezzanotte, venne fondata la società. Il primo presidente non presente alla riunione era uno svizzero. Molto curiosamente, l'Hotel Fiorina e la birreria che anticamente era ospitata in questo palazzo racchiudeva anche la sede della Juventus. I colori della squadra sono il granata e il bianco. La prima partita del Torino sul campo della Pro Vercelli viene vinta per 3-1. E nel campionato del 1926-27 i Granata vincono il primo scudetto, poi revocato e vinto ancora l'anno seguente, con quello che fu chiamato il trio delle meraviglie, Balonceri, Libonatti e Rossetti. Ascoltiamo Franco Ossola, storico del Torino. Erano tre grandissimi campioni, soprattutto Balonceri, l'antesignano del cosiddetto regista. Era un uomo di metà campo che sapeva anche fare tanti gol. Sulla scia di questa meravigliosa tradizione, il grande Torino, quasi 20 anni dopo, inanellò i famosi 5 scudetti consecutivi che lo consacrarono alla gloria non solo del calcio nazionale, ma direi

sul balconcino con l'assegno di 1 milione, lo esibì, disse ce l'hanno pagati 1 milione. Allora la gente di fronte al milione abbassò la testa e disse beh, allora non c'era lotta, ha fatto bene a darglieli. Il Torino era molto moderno rispetto alle altre società italiane. Furono i primi a pensare a organizzare i trasferimenti con un pullman societario, il Conte Rosso, mentre prima andavano in treno, così eccetera. E furono anche abbastanza moderni nel dividere i compiti del direttore tecnico, che era un ungherese, Erbstein, fra l'altro aveva una figlia, Egri, che era una delle più grandi ballerine del mondo, e il coach, l'allenatore, che era l'inglese Liversley. E sotto molti aspetti erano una società estremamente all'avanguardia. A Modena, ultima partita del 46-47, 104esimo gol e scudetto con 10 punti di vantaggio. Il presidente Novo era particolarmente attento dal punto di vista psicologico e andava in giro con questo taccuino infilato nella tasca. Quando trovava il momento favorevole, fermava uno per volta i giocatori di questa squadra, di questi grandi giocatori, e faceva loro firmare queste paginette dove si siglavano gli accordi per il prossimo contratto. Nel 47, quando il Torino era già un grande Torino, mio padre firmò un contratto in cui, al di là dei premi, degli ingaggi, eccetera, si segnalava al fondo che a Natale, se la squadra si fosse comportata bene, i giocatori avrebbero ricevuto in premio una radio. Ma allora chi sono i ragazzi che hanno reso grande il Torino? Scopriamo la qualità tecniche di ognuno di loro con il commento di Giorgio Tosatti. Valerio Bacigolupo, 25 anni, portiere, nato a Vado Ligure, gioca prima nel Savona e nel Genoa, 157 partite, 3 in nazionale, frequenta l'università perché vuole diventare medico. Nel suo portafoglio a Superga verrà trovata la foto del portiere della Juventus Sentimenti IV, il suo grande rivale e maestro. Atleticamente straordinario, molto bravo nelle uscite, diciamo che la sua forza era proprio quella di saper chiudere bene la porta uscendo. Poi era alto, portiere, con pochi fronzoli ma molto efficace. Aldo Ballarin, 27 anni, terzino destro, proveniente dal Rovigo e dal Venezia, 210 partite, 9 volte nazionale. Terzino duro, efficiente, forse un po' troppo duro, ma insomma di quelli che nelle squadre ci vogliono. Padre di 2 figli, porterà il fratello Dino, portiere, con sé a Lisbona e a Superga moriranno in 2. Virgilio Maroso, il più giovane, 24 anni, terzino sinistro, nato a Marostica ma cresciuto nel Torino. 103 incontri, 7 in nazionale, 4 scudetti. Una tecnica straordinaria, poi lui ebbe l'infortunio che praticamente lo tolse di mezzo, ma aveva la tecnica di un numero 10 nel ruolo di terzino. Un giocatore veramente straordinario. È considerato il bello della squadra, ce ne parla la moglie Carla Maria Maroso. Sì, era un gran bel figliolo, certo. Ci siamo conosciuti in piscina, abbiamo simpatizzato, abbiamo fatto amicizia. Lui era fidanzato, però poi ha lasciato la sua ragazza e mi ha chiesto di sposarlo. Io subito non volevo, anche perché ero molto giovane. E allora lui a un certo punto è andato a piangere dal presidente, dal grande Novo, dicendo che io un giorno lo prendevo, un giorno lo lasciavo, il che era anche un po' vero. E allora Novo mi ha mandato a chiamare. Signorina, si decida, o lo pianta o lo sposa, e io l'ho sposato. Comunque è stato molto bello, è durato solo 11 mesi, però è stato splendido. Giuseppe Grezzar, mediano destro, 31 anni, di Trieste, cresciuto nella Triestina, 5 scudetti coi Granata, 8 volte nazionale, 34 reti nella sua carriera. Molto ordinato, molto lineare, non un fu super, però un giocatore di rendimento medio-alto. Grezzar gestisce con Ballarin un negozio di abbigliamento nel centro di Torino. Mario Rigamonti, centromediano, 27 anni, nato a Brescia, 4 scudetti, 140 partite, 3 presenze in azzurro. Rigamonti era uno di quelli che ti si appiccicava addosso e non ti faceva in qualsiasi modo muovere, ecco, era di quelli moderni, molto moderni. La sua grande passione è la motocicletta, ma i numerosi incidenti lo consigliano di muoversi a piedi. Eusebio Castigliano, mediano sinistro, 28 anni, vercellese, 4 scudetti, 116 partite, 66 reti, 7 volte nazionale. Era un giocatore di grande potenza e di straordinaria qualità tecnica. Lui prendeva una moneta, la colpiva col tacco e se la faceva entrare nel taschino della giacca, e l'ha fatto per 10 volte di seguito. Questo per dire come sapeva giocare, quale delicatezza di piedi avesse. Romeo Menti, ala destra, 30 anni, vicentino, esploso nella Fiorentina, 4 scudetti, 131 partite, 53 gol, 7 presenze in nazionale. Di grande sostanza atletica, buon tiratore, grosso faticatore, brava ala, direi un'ala tipica, con capacità eccellente nel fare i cross e anche con buon tiro. Ezio Loiche, mezzala destra, fiumano, prima nel Milan e poi nel Venezia con Mazzola, 5 scudetti a Torino, 176 incontri, 70 reti. Era un giocatore di grande sostanza atletica, con un buon tiro, un grande faticatore. Carattere chiuso ma generoso e inesauribile. Come seconda attività vende vernici con preferenza per quelle color granata. Guglielmo Gabbetto, centravanti, 33 anni, torinese, cresciuto alla scuola juventina, poi coi granata, 303 partite, 164 reti. Di incredibile qualità acrobatica, resta famoso alla sua rovesciata, ed era uno che ci teneva moltissimo sempre a essere a posto, anche dopo la rovesciata, eccetera, cioè avere sempre i capelli ben tirati, ben sistemati, eccetera. Proprio i giocatori, cercando di arrotondare lo stipendio, cercavano di iniziare quella che poteva poi essere l'attività successiva a quella del calcio. Era nata l'attività del duo Gabbetto-Ossola, era nato il Bar Vittoria, ritrovo di tutti gli spettatori prima e dopo le gare, era il punto di ritrovo non solo degli sportivi del Torino ma stranamente anche di quelli della Juventus. Avete sentito Pierluigi Gabbetto, figlio di Guglielmo. Franco Ossola, alla sinistra, 28 anni, varesino, è stato il primo ad arrivare nel nuovo Torino. 5 scudetti, 186 incontri, 86 reti. Ce ne parla il figlio. Vittorio Pozzo preferiva orientarsi per i giocatori che andava a scegliere a rappresentare la nazionale sugli specialisti. Quindi Menti, ad esempio, era un'ala destra pura e quindi giocava in nazionale. Papà, viceversa, era un jolly dell'attacco e quindi non riuscì mai a trovare un posto in nazionale, anche se lo sarebbe meritato. Prima di entrare in campo si sparavano un tubetto intero, che poi neanche le docce più calde e più insistite riuscivano a tirar via tutta questa cosa. Ossola, anche lui molto elegante, un giocatore veloce, tecnicamente molto pregevole. Ossola è anche uno dei primi giocatori a fare la pubblicità della brillantina, appunto. Pubblicità all'epoca retribuita semplicemente con omaggi del marchio sponsorizzato. Con la storia del Torino riprendiamo subito dopo la viabilità. Mix 24, la storia. Bentrovati su Mix 24. Il capitano del Grande Torino è Valentino Mazzola, il simbolo dei granata e della nazionale. 30 anni, mezzala sinistra. I primi passi a Cassano d'Adda, dove è nato, poi nella squadra aziendale dell'Alfa Romeo di Milano, dove lavora. Nel Torino a partire dal 1942. 5 scudetti vinti, 130 gol segnati, 256 partite giocate, di cui 12 in nazionale. È un'attività di fabbricante di palloni. Anche i suoi due figli giocheranno a calcio e Sandro diventerà uno dei più grandi giocatori italiani di tutti i tempi.

Milano salgono sull'aereo, un trimotore Fiat 202, i titolari più Dino Ballarin, fratello di Aldo, Bongiorni, Fadini, Grava, Martelli, Operto, Schubert, i dirigenti Agnisetta e Civalleri, il direttore tecnico Erbstein, l'allenatore Liesveli, il massaggiatore Cortina, i giornalisti Renato Tosatti, Renato Casalbore e Luigi Cavallero, il comandante Meroni e tre membri dell'equipaggio più il noleggiatore dell'aereo Bonaiuti. Novo, ammalato, resta a casa. Anche Carosio rinuncia per non mancare alla cresima del figlio. A Lisbona il Torino incassa 4 reti e ne segna una. A Barcellona l'aereo effettua uno scalo tecnico e su quella sosta nasceranno molti interrogativi. Sull'aereo è stato caricato qualcosa all'insaputa dei passeggeri? E se sì, da chi? Il volo riprende, ma sul Mediterraneo il tempo comincia a peggiorare in maniera preoccupante. Cumuli di nubi si addensano all'orizzonte. Entrando nello spazio aereo di Savona, il comandante Meroni si mette in contatto con Torino. Dal campo dell'Aer Italia gli comunicano che sulla città e su tutto il Piemonte il tempo è pessimo e la visibilità precaria. Un volo rischioso, specie per un velivolo come quello privo di radar. Sarebbe meglio scendere a Milano, dove le attrezzature aeroportuali sono ben più moderne, ma a Milano, dirà qualcuno, c'è la dogana, di cui invece Torino è priva. Poco prima delle 17, il marconista dell'aereo riceve da Torino la conferma che la visibilità è di poche centinaia di metri. Poi comunica: siamo a quota 2000, tagliamo su Superga. Qualcuno che in volo sulla città entra a sua volta in contatto con l'aereo. Siccome il pilota era un mio amico, l'ho chiamato e gli ho detto: dove sei? Mi ha detto: sono quasi ad Asti, sotto le nuvole. Allora, va bene, ti aspetto, e mi ha detto: preparami un caffè. Ormai l'aereo dovrebbe essere visibile sulla pista, ma passano i minuti e del G202 non arrivano più comunicazioni. I tentativi della torre di controllo di stabilire un nuovo contatto si rivelano inutili. L'aereo vola a 700 metri e dalle nubi il comandante deve aver visto all'improvviso la Basilica di Superga. Addio ragazzi del Torino, soltanto il cielo vi ha dominato, ma le vostre gesta saranno ricordate per sempre. Giampaolo Ormezzano, grande giornalista e tifoso granata, nell'anniversario del disastro di Superga, dopo 20 anni, il Toro ha battuto nel derby la Juve. È stato il modo migliore per ricordare il grande Torino? Io direi assolutamente no. Perché? Per due ragioni. Una, la superiorità del grande Torino a questo calcio, a questo momento calcistico, a queste vicende in chiave di violenza. Ecco, come stiamo confrontando due mondi che non hanno nulla, ma dico di nulla in comune. Un'altra, ecco. Italia, diciamo, ma il presidente Cairo sta facendo del Toro di nuovo una grande squadra. Ha la visione giusta? Ma Cairo sta lavorando veramente bene. Sta lavorando bene con parametri, chiamiamoli imprenditoriali. Ha fatto del Torino una macchina che probabilmente produce, sicuramente non divora soldi, e non è il massimo per entusiasmare le tifoserie, sarebbe il massimo per gente intelligente, colta, eccetera. Giampaolo Ormezzano, già il grande Torino era una squadra modernissima nell'organizzazione, si può dire che Cairo è sulle orme di nuovo? Sì, però gli manca Vittorio Pozzo, che era giornalista, era commissario tecnico della Nazionale ed era soprattutto tifoso del Torino. Tutti ascrivono al genio di Monogo la costruzione di questa squadra, in realtà c'erano dietro i consigli di Vittorio Pozzo. Vittorio Pozzo non c'è, ecco, gli manca questo, ma non è sulla colpa, non può mica inventarselo. Ecco, voglio dire che io ero scettico su Cairo, però approfitto dell'occasione per precisarlo. Mi ha convinto e vinto anche. Il grande Torino è stato con Coppi e Bartali il simbolo dell'Italia che rinasceva e vinceva. Era amato da tutti, era una squadra amata da tutti. Ancora più che amata, perché era anche stimata. Il Torino era veramente rispettato, stimato. Io lo so da chi, da due grandi juventini che mi hanno sempre espresso in via amichevole, il secondo addirittura amicizia fraterna, e allora ammirazione per il grande Torino, Gianni Agnelli e poi soprattutto Giampiero Boniperti. Giampaolo Ormezzano, ma secondo lei come si fa a far sì che il calcio diventi solo una manifestazione sportiva e non di violenza? Niente da fare, assolutamente. ho l'idea che oltre a esserci niente da fare, sia meglio così. Sono al paradosso estremo. La violenza del calcio, che teniamolo presente, in tutta la storia del calcio italiano ha prodotto un solo morto tra i tifosi dentro lo stadio, uno solo. Questa violenza serve A come sfogatoio, B per evitare che si parli di altre violenze più sottili esercitate meglio, C come palestra di sdegno facile per i moralisti. È una cosa troppo bella e troppo ghiotta, perché il potere che ormai nel mondo appartiene a 10 persone, 15 esagerare, se la lasci sfuggire. Quindi è molto difficile, ma quella tragica vicenda di Superga è ancora nel cuore dei tifosi del Toro? Sì, larga parte sì, è abbastanza un bel fenomeno questo, perché viene tramandata non solo oralmente, ma dall'enorme massa, pari da solo a tutto il resto della produzione del calcio italiano, che il Torino genera di opere letterarie, poetiche, teatrali, di tutto. Il Torino è una fucina di queste cose. Ognuno scrive un libro, ne è uscito uno anche l'altro giorno, di tutto, continuamente. Sì, c'è una certa tradizione che tiene, e abbiamo anche una specie di sacrario su quale ci sono molti equivoci, in Filadelfia, si tiene stranamente in tempi di oggi, che distruggono e rovinano tutto. Questo sarebbe un fenomeno da studiare. Noi vecchi che la teniamo viva parlando ne siamo rimasti in pochi, ecco, per squallide ragioni anagrafiche, no? Credo che tenga ancora, però è uno dei massimi misteri, noi scopriamolo parlandone troppo.